Benvenuti a casa. Ti senti a casa? Sì. Se no, cambi, chiami un architetto, fai quello che vuoi, ma questa è casa tua. Quando il fratello Onofrio mi saluta ogni domenica sera, allora dice, per scanzonarmi, per prendermi in giro, per far dice, allora fatemi salutare l'ex pastore. E io immediatamente rispondo, ex mai, emerito sì, fu mai, perché quello che sei, lo sei costantemente, lo sei qui e lo sarai davanti al Signore. E io proprio voglio leggervi un passo molto sorprendente che parla di quello che il Signore non pensa, quello che il Signore ci ha resi e ci rende alla sua presenza. È un passo... Vi capita mai di leggere un passo che avete letto 100 volte di leggerlo per la prima volta? Sì, eh? E questa è la cosa più bella della parola di Dio. Ascoltate che cosa dice a riguardo di noi. Dice, ma voi, ma tu, siete una stirpe eletta. Non lo so quel che vuol dire. Un sacerdozio regale. Una gente santa. A ogni identificazione è stato messo un aggettivo, uno specificativo che ci descrive completamente. Un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Ma qui ci vuole proprio da girarti al lato e dire tu sei questo. Lo fai? Vedi che hai detto al tuo fratello che forse non si è seduto per caso accanto a te o che hai scelto. Gli hai detto tu sei una stirpe eletta, tanto speciale sei, cioè tu sei proprio, quando si parla di sangue blu, di più, una stirpe eletta. Poi dice anche, tu hai detto all'altro, sei un sacerdote regale. Non solo rappresenti Dio, ma lo rappresenti nella maniera più incredibile e più regale possibile. Tu sei un agente, sei una persona santa. Mo' crederci, questo è il punto. Il Signore l'ha detto, tu io siamo questo. Lui è andato alla croce per fare questo, per me e per te. Però crederci, lì è proprio il punto che noi dobbiamo afferrare. Sapete, dopo che Gesù aveva fatto tanti miracoli, credo Luca 15, una cosa del genere, dopo che aveva fatto tanti miracoli, anche questo è un passo molto famoso, dopo che aveva fatto tante cose, I discepoli si rivolgono a lui e fanno l'unica richiesta che i discepoli fanno proprio. Ve la ricordate che cosa hanno chiesto a Gesù i discepoli come richiesta? Che cosa hanno chiesto? C'è pure mia moglie stasera, hai visto Rocco? È venuta. Beh, ad alta voce. Hanno chiesto, aumentaci la fede. È l'unica richiesta, aumentaci la fede. E mo la risposta esatta di Gesù, quale fu a loro? No, non ha detto. Se aveste fede quanto un granello di senape, non lo ha detto. Sapete che cosa ha detto? Ha detto: muoviti, date una mossa. Che cosa vuol dire un granello di senape come fede? Che significa? Io ce l'ho, me lo sono incollato sulla prima pagina della Bibbia. E se ve lo faccio vedere, non si vede nemmeno. È quel puntino in mezzo proprio, è un granello di senape. Che cosa vuol dire questo? Non vuol dire proprio niente, ma quello che il Signore ci ha voluto dire e ha voluto dire ai Suoi discepoli è stato: fai il primo passo, fai il primo passo, muoviti, mettiti in azione, perché questo fa crescere la fede, perché questo ti fa credere nell'identità che io ti ho dato, perché questo ti fa appropriare di quello che tu hai ricevuto da me e che non sempre ci credi e non in ogni situazione ci credi. Fai il primo passo. E per vedere questo, che cosa vuol dire nella pratica? Perché a me piace, ci serviremo di alcuni esempi per capire esattamente che cosa vuol dire fare questo primo passo, che cosa vuol dire crescere nella fede, che cosa vuol dire appropriarmi che io sono santo, appropriarmi che io sono un sacerdote e lo devo realizzare e praticare in ogni momento della giornata. Beh, per fare questo, noi andremo a servirci, come piace a me sempre, di alcuni esempi pratici, di vita pratica della parola di Dio, degli apostoli, come loro lo hanno vissuto, perché così noi possiamo imitare, noi possiamo fare lo stesso e andare avanti. Allora, il primo esempio riguarda l'apostolo Paolo. Paolo, e qui lo voglio leggere insieme a voi, dice qualcosa di molto singolare, particolare, che forse non ti aspetteresti nemmeno da un Paolo che si esprime in questa maniera. Io leggo dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 19, il verso 21. Dopo questi fatti, Paolo, ascoltate bene, dopo questi fatti, dopo tutto quello che è accaduto, tutto quello che aveva fatto, che aveva operato per il Signore, dopo questi fatti, Paolo si mise in cuore. Che cosa vuol dire? E di nuovo chiedo il significato. Che cosa vuol dire si mise in cuore? Aveva così una grande fede? Si mise in cuore, che vuol dire? Vuol dire semplicemente desiderò, ci teneva, voleva. Fare che cosa? E qui poi viene descritto quello che lui si mise in cuore di andare a Gerusalemme passando per la Macedonia. È come che fai una passeggiata, che vai a casa e dice passo un momento dal negozio, e per l'Acaia, dopo essere stato là, diceva: bisogna che io vada anche a Roma. Paolo si metteva degli obiettivi. Gli obiettivi, le mete, alimentano la fede, la fanno crescere. Poniti degli obiettivi davanti nel servire il Signore. Questo farà crescere la tua identità di quello che sei. Invece che devi andare dietro a piangerti, chi sono io, a me mai niente, a me questo che conosciamo, questi tipi di preghiere, fatto un poco più gentili, ma così. incomincia a porre degli obiettivi davanti a te. Paolo se li è messi lui gli obiettivi, se li è messi lui, dici io voglio andare là perché il mio desiderio è servire il Signore dovunque, comunque, non ha importanza dove. Dove sei, il Signore vuole che tu realizzi la tua identità, che tu realizzi che sei un sacerdote, che tu sei una gente santa, che tu sei un popolo eletto, un popolo acquistato. Paolo si è messo questi obiettivi e forse dopo un poco, probabilmente si è pure pentito, ha detto io voglio andare a Roma, perché voleva annunziare nella Caput Mundi, voleva annunziare l'Evangelo. È andato a Roma, è vero? E come è andato? È andato prigioniero. Avesse fatto la preghiera, Signore, mandami come ambasciatore, non dico un 5 stelle, ma pure 4. Niente, è andato come prigioniero, arrestato per andare a Roma. Ma lui non ha guardato e non si è fatto fermare da queste situazioni, perché il suo desiderio è andare a Roma. L'importante, ho ferito, morto no, ma ho acciaccato, ma io voglio andare là per annunziare l'Evangelo. Questo era l'obiettivo di Paolo. E ne ha passato, cioè uno di noi, io mi sono immedesimato, perché a un certo punto del viaggio, che cosa è successo? Non solo era prigioniero, incatenato e non si poteva muovere, naufragio. E là che cosa ti viene da dire? Signore, fra tante navi, proprio la nave dove ci sono io, le facciamo queste preghiere, dicendo... Proprio a me? Allora uno può sembrare e incomincia a venire dentro la nella mia mente, incomincia a venire, ma Signore forse non è volontà tua che io vada a Roma. Poi fa una bella confessione Paolo nel capitolo 27 di Atti, andatela a leggere la storia, è bellissima. Fa una bella confessione, che cosa dice? Uomini, mettetevi l'anima in pace, che noi non periremo qui, perché ho fede che l'Iddio che mi ha messo in cuore di andare a Roma ci salverà. Va bene, feriti, ma ci salverà. E appena salvati, appena giunti sull'isola, che cosa succede? Che succede? Una vipera, una serpe lo morde. Allora dici, no, ma questa è proprio la conferma, Signore, che tu non mi vuoi a Roma. Quante conferme troviamo in questa maniera. Ma Paolo si era posto un obiettivo e non si è lasciato distrarre. E in questo è cresciuta la sua fede. Vedete, la prima volta ha confessato, uomini, state in pace, noi arriveremo. La seconda volta ha scosso la serpe dalla sua mano che l'aveva morso. E tutti quanti stavano ad aspettare che questo incominciasse a gonfiare e a morire. Non è successo niente. Non è successo niente. Perché? Semplicemente perché la sua fede cresceva a causa dell'obiettivo. Io devo andare a Roma. Con il veleno in corpo io vado a Roma. Questo fa crescere la fede, questo fa crescere la tua identità, quello che sei nel Signore, non quello che fai che passa, ma quello che operi e agisci per il Signore. Guardare le circostanze, noi ne abbiamo un'infinità di circostanze avverse, anzi ogni giorno noi dobbiamo fare una lotta perché viviamo tante difficoltà e dobbiamo affrontare tante problematiche, ma le circostanze sono un attacco del maligno per far morire la nostra fede. Così sembra, è l'apparenza. Ma l'obiettivo che tu hai è quello che fa crescere la fede e che fa vincere anche le circostanze, anche le più avverse, anche le più difficili, anche quelle dove noi diciamo qui non posso fare nulla, ma il Signore ci ha fatto confessare che noi abbiamo, Gianluca, un padre eccezionale che ci ama e ci ama in ogni situazione e in ogni circostanza, non quando solo fai bene, ma anche quando fai male. Anzi, allora è ancora più vicino. Paolo ha scelto e le sconfitte che sembravano il naufragio, la serpe e altre difficoltà non lo hanno distolto dal suo obiettivo. E così lui ha potuto raggiungere quella forza e quella maturità dentro di lui per realizzare quello a cui il Signore lo ha chiamato. Io lo so che noi abbiamo tanti obiettivi nella nostra vita, la salute, il lavoro, la casa, lo studio per i giovani, il lavoro e così via dicendo. Sì, d'accordo, sono belli obiettivi, ma non fare girare la tua fede, la tua identità intorno a queste cose, perché queste cose passano. È quello per cui hai tanto lottato e che ti sei tanto affaticato, poi il giorno dopo non hanno più quel valore, non hanno più quel desiderio che ti hanno portato a raggiungere quello. Ma porsi l'obiettivo di servire il Signore in qualsiasi campo, in qualsiasi... Paolo non fa niente come lo serviva, da prigioniero, da moribondo, non ha importanza, era servire il Signore. Tu mi sai dire, dici, io voglio andare a Roma, che è la capitale del mondo all'epoca, e voglio annunziare l'Evangelo, ma mi sai dire con quale animo puoi andare a Roma e poter annunziare l'Evangelo essendo prigioniero e rimani rinchiuso in una cella? Paolo lo ha fatto ed è riuscito. Io non lo so come, ma la gente è scritta, la gente andava a lui e lui poteva annunziare l'Evangelo, non si doveva nemmeno scomodare. Anzi, quelle catene erano da parte del Signore per dire tu non ti devi muovere, perché non è la tua capacità, ma è la mia capacità. Quelle catene che tu avverti sono da parte del Signore. Perché non ti devi tu muovere, è il Signore che lo deve fare, nella sua forza e nel suo amore, e Lui lo fa. Comunque andiamo oltre. Qui abbiamo visto come l'obiettivo alimenta la fede e l'identità. Questa è la sfida che il Signore lancia a noi, anzi addirittura Gesù stesso ha detto in un passo, ha detto cerca per prima il regno di Dio e la sua giustizia e c'è pure un e, tutte le cose ti saranno sopraggiunte. Allora guarda bene, hai un obiettivo, io lo so, l'ho detto già, abbiamo tanti obiettivi, ma hai un obiettivo, non c'è un obiettivo piccolo, un obiettivo grande davanti a Dio, c'è un obiettivo. In qualsiasi campo, in qualsiasi settore, hai un obiettivo di servire il Signore, che può essere quello di accogliere, di parlare all'altro, di consolare l'altro, che può essere quello di testimoniare, porti, essere testardo, come metterti la fissa come Paolo, io devo andare a Roma, io devo parlare a quella persona, io lo devo strappare per mezzo della potenza di Dio dalle tenebre, qualsiasi, ma poniti un obiettivo, questo creerà un'identità da gigante nella tua vita e ti permetterà di gioire tutte le cose che il Signore mette a nostra disposizione. Ma c'è un altro esempio. Dice, mo non riesco a mettermi un obiettivo. E va bene, ma non fa niente. Non fa niente se proprio adesso non riesci a porti un obiettivo. Anzi, io dico da parte mia, vai nel cassetto, quello sotto sotto, aprilo, spolvera un po' sotto e vedrai quanti obiettivi ci sono in quel cassetto che hai lasciato lì, che affondassero. Vai a spolverare qualche vecchio obiettivo e vedrai come questo formerà la tua identità nel Signore. Ma va bene, di nuovo lo dico, non ho obiettivi. Allora, c'è un'altra storia. A Luca capitolo 22, questa è anche molto curiosa, è Pietro. Prendiamo tutti i personaggi di cui conosciamo le storie a memoria, perché così possiamo comprendere meglio come loro li hanno vissuto nella pratica e come si sono comportati e quelli che sono stati i loro sentimenti. Pietro è anche una storia molto conosciuta. Nell'Evangelo di Luca, al capitolo 22, dal verso 31, ascoltate. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma, io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Non hai obiettivi? Gesù te li dà. Gesù te li dà. Non hai obiettivi? Te li dà il Signore. Non fa niente che tu dici, io non riesco a mettermi obiettivi nella fede, nel servire, nel fare. Gesù te li dà. Io faccio le domande e rispondo, va bene, così rimane alla fine chiaro. Dici, ma come si fa a capire che Gesù mi dà gli obiettivi? Si capisce, lo capisci, non c'è altro, lo capisco, quando il Signore dà obiettivi. Eppure vedi che cosa è successo poi con Pietro. Poi andremo a vedere gli obiettivi. Ha dato due obiettivi a Pietro. Cura te stesso e cura gli altri. Convertiti e poi sostieni i fratelli. Questi obiettivi ha dato Gesù a Pietro. Eppure proprio poi, se voi andate a leggere la storia, Pietro gli disse, Signore, sono pronto. E qui io riconosco il coraggio di gallina mio. Signore, sono pronto ad andare in prigione e a morire per te. Qual è stata la risposta di Gesù? Mo che sente il gallo te ne accorgerai. E molte volte è quello che noi viviamo. Gesù gli ha dato degli obiettivi, perché Pietro anche doveva attraversare quello che ha attraversato. Vi ricordate? Ha tradito Gesù. Si è trovato lì nell'atrio con tutti gli altri, dove Gesù veniva frustato, veniva preso, e qualcuno lo ha riconosciuto. Dice, ah, anche tu, anche questo è con loro. E Pietro si è nascosto. Perché lo ha fatto? Semplici sentimenti che viviamo noi ogni giorno. Paura? Sì, paura. Vergogna? Sì, vergogna. Che cosa devono dire mo questi che io faccio parte di loro? Lo ha portato a simulare, lo ha portato a dire no, anzi, più che simulare, a bestemmiare, a imprecare. Contro, a dire no, io assolutamente non faccio parte di questo, però Gesù ha dato a Pietro due obiettivi. Dice, non fa niente tutto quello che passi. Gesù ti ha dato degli obiettivi, tu lo sai. Non fa niente tutto quello che passi. Non fa niente le tempeste che devi attraversare. Non fa niente quello che devi vivere nella tua vita. Ma Gesù ha messo un obiettivo davanti a te, ti ha assegnato un compito, ti ha chiamato a realizzare quello che è la sua visione per te, per me. È la stessa cosa ha fatto. E a Pietro, non è che gli ha detto tu sarai il primo papa della storia. Non gli ha detto tu convertirai il mondo. Quello era un sedentario, non si muoveva da Gerusalemme, mandava gli altri. Lui stava bene nella sua chiesa grande lì a Gerusalemme. Abbiamo sentito domenica scorsa, no? Di quanto grande era quella chiesa, fino a 100.000 si calcola. Stava bene. Non gli ha dato questi grandi obiettivi, gli ha detto una semplice cosa e poi la seconda. Ha detto convertiti, che vuol dire poi cambia, vuol dire semplicemente cambia la posizione che hai, cambia quel pensiero che hai, perché quello molte volte è l'impedimento alla realizzazione del piano di Dio nella tua vita. Quando hai una fissa davanti, che è un pensiero tuo e che vuoi realizzare quello che tu dici e alla tua maniera, Gesù dice convertiti. Lo ha detto a Pietro. E Pietro, la prima cosa che ha fatto, si è convertito. Lo sappiamo che subito dopo quell'episodio del tradimento, Pietro è andato fuori e ha pianto amaramente, ha compreso quello che era successo nella sua vita. E da allora in poi la sua vita, come per miracolo, è cambiata. Quella che era la sua paura è passata. Quello che era la sua vergogna è passata, perché quello era quello che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, che si è alzato di fronte a una folla e in un solo giorno, anzi forse in una sola ora di predicazione, ha fatto convertire più di 3.000 persone. Perché? Perché è cambiato. Perché ha rinnovato il suo cuore. E poi Gesù gli ha dato un altro obiettivo molto semplice, cioè non ha chiesto cose, non ha chiesto, il Signore non ci chiede la luna, il Signore ci chiede cose pratiche di ogni giorno. Ha detto, quando tu ti sarai convertito, incomincia ad aiutare i tuoi fratelli, affiancali, fortificali, probabilmente vengono meno nella fede, tu sostienili, tu incoraggiali, tu prega per loro. Questo è il compito che ha dato a Pietro. Nel momento in cui tu ti sei convertito, tu hai il compito di sostenere gli altri. Il Signore ti ha affidato il tuo fratello. Vi ricordate la storia di Abele e Caino? Quale fu la risposta di Caino all'interrogazione di Gesù? Ve la ricordate? Mica io sono il guardiano di mio fratello. Sì che lo sei! E il Signore, è scritto, chiederà conto di quel sangue. Chiederà conto di quel sangue. Se il tuo fratello sta male, ha bisogno del tuo aiuto, fosse anche solo della tua preghiera. E non puoi essere superficiale, e non puoi non prendere l'impegno di sostenere la tua famiglia, il tuo fratello. Cura te stesso e cura anche l'altro. Questo ti dà l'identità di gigante. Questo ci dà l'identità di gigante. Per concludere, l'ultimo aspetto, un altro esempio di un sempre personaggi che sono molto belli per vedere, perché è vita vissuta, è vita pratica. Tito, non è che si sente tanto di Tito, si sente più parlare di Timoteo, ma Tito, noi andiamo a leggere la lettera che Paolo ha scritto a Tito e vedete quello che Paolo dice a Tito. Dice: per questa ragione ti ho lasciato a Creta. Da qui non si sfugge. Perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città secondo le mie istruzioni. E poi continui, dice, quando si trovi chi è, e dà anche le spiegazioni. Non riesce ad avere obiettivi. Non riesce a sentire gli obiettivi che Dio ti dà. Leader ti danno obiettivi. Leader ti danno obiettivi. In qualsiasi settore tu stai servendo e sei impegnato e c'è un leader e ti chiede qualcosa e ti chiede, no, qui Paolo ordina qualcosa e ti viene chiesto qualcosa, fallo, perché quello è il mezzo per far crescere la fede e far maturare l'identità che Dio ha dato a te. Non esiste. E il Signore non ha detto ancora niente a me. Tu o credi o non credi che il tuo leader è guidato da Dio. Punto. E se tu affermi che il tuo leader o che il nostro pastore è guidato, anzi qui io posso anche fare un esempio. Il mio pastore ha detto, siccome tu ti trovi in una giovane età e pieno di forze e pieno di iniziative, per sprecare e per spendere tutte quelle energie devi andare a Mottola. E io lo faccio perché ho gioia nel farlo, perché è l'obiettivo di Dio. Io voglio servire con mia moglie dovunque e comunque, non ha importanza in cosa, ma è servire il Signore. Se il tuo leader ti affida un obiettivo, ti dà un obiettivo, non incominciare con il dire il Signore lo deve dire pure a me. Il Signore lo ha detto già. Ed è proprio quello il mezzo che sta usando per dirlo anche a te. Sta usando il tuo leader per dirti, come Paolo, vedete che Tito era un giovinetto, era una cosa che non veniva nemmeno considerata, e gli ha lasciato un compito gravoso, doveva mettere in ordine le questioni che c'erano. E già questa la dice lunga, no? E perché poi se l'è andata a leggere Tito, gli dice proprio, vedi, è quelli, è quell'altro, i giovani che sono. Allora, metti in ordine le cose e nomina anziani per ogni chiesa. È incredibile. Cioè, Paolo ha detto a Tito, Tito, io so che tu sarai guidato da Dio. Come e quando non lo so, però devi riuscire a individuare gli anziani, persone che sono spirituali, irreprensibili, e li devi mettere a capo. Ma chi io? Ma quelli sono più grandi di me. Tu. Allora, poi è anche bello, se l'andate a leggere, poi vedete anche come, anche nei versi 12, 13 dell'altro capitolo, è proprio bello, andatela a leggere. Io spero che abbia suscitato solo curiosità nel farlo. Voglio dire semplicemente questo in conclusione. Mettiti obiettivi. Ti daranno una fede da leone. Accetta gli obiettivi che Dio ti ha dati. Non tenerli nel cassetto. Tirali fuori. Applicali. Fai il primo passo. Come? Non fa niente. E se sbaglio, non sbagli. Perché hai il Padre Celeste al tuo fianco che non permetterà che tu farai danno. E se il tuo leader ti dà un compito di collaborare insieme, quella è la voce di Dio per te, per me, per ognuno di noi. Questo ci permette di crescere e ci fa sì, e fa sì che noi diventiamo il prolungamento e la realizzazione del piano di Dio. Amen? Amen. Diciamo che la settimana scorsa, domenica scorsa, non abbiamo capito niente della predica del nostro pastore. Ma ha finito il messaggio con un appello a tutti quanti noi. Qual era? E io qui vi volevo. Anche se non hai capito niente, l'appello del nostro pastore era: diventa capogruppo. Vi ricordate? Diventa capogruppo. Non solo seduta alla sedia. Diventa capogruppo, poniti questi obiettivi. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Potremmo continuare tutta la serata, ma io credo che il Signore quello che aveva da comunicarci lo ha fatto e con forza. Signore, grazie per ognuno di noi. Noi aspiriamo che il 100% della tua Chiesa sia servitore tuo, Signore. E vogliamo affiancarci l'uno all'altro per essere famiglia e essere quel popolo che proclama la tua salvezza a ognuno. Grazie, oh Gesù, per quanto hai voluto affidarci questa sera. E io voglio dire da parte mia, io lo prendo sul serio. Amen.